gentile e modesto. Ma sul volgere della sera strano, stava lì e lo guardava immobile. Quell'uomo non diceva niente e lo guardava. Intanto si accorse che il suo respiro si era fatto più veloce. Più veloce. Ha ha ha ha!